salire su una vetta, scrutando l'orizzonte, capire cosa vedi da lassù. Se si accendono i pensieri, cercare ciò che ieri è stato già. Nei lampi dei ricordi poi troverai la fonte, la forza per tirarti un po' più su. Nei sogni un po' più veri la vita con il tempo cambierà. L'ansia del momento che cos'è? Un attimo di luce anche per te. Vedere la tua storia, capire poi nel viverla com'è. Cerca alcune volte qualcosa che è lontano, che un tempo invece è stata insieme a te. Nei ricordi o fantasie il fiume della vita scorrerà. Momenti di una volta a tenderti una mano, per far capire l'ansia che cos'è. Non sempre si è in pianura, a volte la salita arriverà. La vita non ha limiti, però capire non è facile, perché la gioia ogni momento che vivi si pagherà di più. Seduto sopra il monte, rivedi l'orizzonte, son molte riflessioni da lassù. Si fermano i pensieri e ciò che è stato ieri torna qua. La luce in un momento, baciare la tua fronte, la mente ora vola un po' più su. Capire come eri, il tutto come viene se ne va. In fondo un momento che cos'è? Un attimo di vita in fondo c'è. Sentire la tua storia, capire nel vissuto che cos'è.